desiderio oscuro di morderti dentro, curare con la morte ogni tuo sorpreso. Sono la fine della felicità, un peggio mortale che ti avvelenerà. Sogni di gloria, facciamo il piedo con me, se sveni con la sede dell'inferno. Guardarti il fondo a fondo, quel braccio raggiungerà la tua squadra. Io sono con noi,